Benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 per ascoltarci attraverso un computer, attraverso lo streaming. Potete andare sul sito www.ondarossa.info e cliccare su Ascolta la diretta. Benvenuto a tutti e a tutti. Di nuovo un benvenuto particolare a tutti coloro, a tutte coloro sono private della loro libertà personale. Inizia Tracce di Cinema, sono le 15.03, siamo puntualissimi. Il film di oggi è un film bellissimo, la colonna sonora è mitica e si può dire ben poco su questo film, se non che niente abbiamo nella storia è riuscito a fermare le guerre. Nessuno di quelle teste di cazzo che hanno il potere sono riuscite a imparare dalla storia e a far qualcosa per fermare la violenza che è purtroppo viva in tutte le parti del pianeta, però ciò non vuol dire che dobbiamo smettere di credere che questa violenza possa essere fermata. Anzi, è un nostro dovere, e così è un dovere anche del cinema e della musica e della cultura e della controcultura, aiutare a far sì che la gente almeno sappia quanto è spaventoso quello che può succedere e quello che sta succedendo. È un po' retorico, ma è così. Il film di oggi è Her e la colonna sonora, beh, probabilmente la conoscete tutti, ma è sempre un gran piacere ascoltarla. Buon ascolto. Manchester, England, England, across the Atlantic Sea, and he's a genius, genius. He believes in God, and he believes that God believes in Clark. That's him, that's him. Quadruple Bukowski finds him in Scooby to hide in the movie. Pretelli's Fellini and Antonioni, and also a Scutcher and Roman Polanski, all rolled into one. Welcome to Kukulkowski. Manchester, England, England, across the Atlantic Sea. Grande, grande, grande musical questo qua. C'è da dire una cosa: la colonna sonora è stata composta non per il film, ma per la versione teatrale, che è ben più vecchia del film, cioè, infatti della fine degli anni 60. I testi sono di Jerome Ragni e di Jim Rado, che recitano sia nelle versioni teatrali che nella versione cinematografica. Solo nella versione teatrale. Solo nella versione teatrale. Allora non ci ho capito niente. Sono autori dei testi, delle canzoni del musical, e hanno anche recitato durante il musical, durante le varie spettacoli, ma non nel film, no. Okay. E le musiche però sono tutte di Galt McDermott, è un grande compositore canadese, pianista e anche autore di sceneggiature teatrali, e ha vinto tanti premi, e il suo più grande successo però sono proprio le musiche composte per l'opera teatrale di Hair, per cui ha vinto nel 67 un Grammy. E una cosa da dire su McDermott: McDermott, che ha fatto appunto un sacco di altre colonne sonore, ma che ha lavorato insieme a dei rapper. Alcuni hanno preso dei loop, dei pezzi, dei sample dalle sue canzoni, come Busta Rhymes. Altri addirittura hanno proprio lavorato insieme a lui, ad esempio il rapper Oh No ha realizzato un album prodotto da McDermott e intitolato Exodus into Unhearted Rhythm. E invece questo brano è Manchester, è il titolo. È stato cantato nel film proprio da John Savage, pseudonimo di John Youngs, un attore statunitense famosissimo, che insomma ha recitato in moltissimi film, più famoso Il Cacciatore, la regia era di Michael Cimino, e poi Salvador di Oliver Stone, molti altri film, anche La Sottile Linea Rossa, Hair, Summer of Sam, Oltre la Tempesta di Ridley Scott, e molti molti altri film. E di McDermott volevo dire anche un'altra cosa, che se riesco a trovarla, perché qua le notizie sono tantissime oggi e non è facile raccapezzarsi. Io ci ho provato ieri mentre mettevo a posto tutto quanto, non sono stata molto brava. E McDermott, volevo dire che ha lavorato sì con tantissimi rapper, e anche con i Public Enemy, vero? Ah, sì, sì, come no. Anche con i Public Enemy e con molti altri che adesso mi sfuggono. In particolare dei Run-DMC. Run-DMC, sì, infatti. Con il brano Down with the King, il loop viene proprio da una. E ha realizzato anche un album con il rapper Oh No. Pensate, insomma, passare, no, da una colonna sonora così come Hair al rap, insomma, deve essere una bella mente questo McDermott. Mi piacerebbe incontrarlo. Stiamo ascoltando la colonna sonora di Hair, e questo brano era Colored Spade, cantata da Dorsey Wright, un attore statunitense nero che ha anche recitato in altri film di quel periodo, ad esempio il bellissimo Guerrieri della Notte. C'è da dire che queste versioni della colonna sonora, delle versioni, diciamo, la colonna sonora del film rispetto alle versioni teatrali, l'ha resa un po'. Il McDermott l'ha reso più funk e anche più pop rispetto alla versione le versioni originali, invece, che erano più rock, e il risultato è molto bello. Sì, pur ispirandosi al musical teatrale ed essendo stato scritto dagli stessi autori, il film si differenzia profondamente dal lavoro rappresentato a Broadway, non solo nella trama ma anche nella sequenza dei brani musicali, come diceva David. Tanto che Rado e Ragni, che insomma sono gli autori appunto dei testi del musical, si arrabbiarono moltissimo con Milos Forman e non erano affatto d'accordo con lui, perché insomma secondo loro non aveva messo bene a fuoco la polemica, insomma, che c'era contro la guerra e per il pacifismo, e raccontano racconta proprio Rado che di questa, la nascita di questo musical è stata durante insomma un periodo di grande amicizia. Rado e Ragni sono stati compagni insomma di una vita e hanno scritto insieme questa pièce teatrale famosissima e hanno pensato al titolo di questo musical mentre erano una mostra al Whitney Museum e videro un quadro intitolato Hair che li ispirò appunto per il titolo dello, dello show. Il quadro consisteva in un pettine e poche ciocche di capelli su una tela vuota. Su Los Angeles Times Rado indicò la materia prima che servì di ispirazione per il musical in una combinazione di alcuni personaggi che avevano incontrato per strada, di gente che conoscevano della loro stessa immaginazione, che sono parte della loro stessa immaginazione, e dice proprio: conoscevamo quel gruppo di ragazzi dell'East Village che si abbandonavano e che sfuggivano alla leva, e c'erano anche un sacco di articoli sui giornali sui ragazzi cacciati dalla scuola per essersi lasciati crescere i capelli troppo lunghi, e noi mettemmo dentro lo show anche loro. E inoltre ricorda che c'erano moltissimo entusiasmo nelle strade e nei parchi e nelle zone hippie di New York, e noi pensiamo che se avessimo potuto trasmettere questa eccitazione sul palco sarebbe stato meraviglioso, e infatti lo fu, perché lo spettacolo da quando fu messo in scena ebbe 1750 repliche, e ancora oggi in tutto il mondo viene messo in scena con grande entusiasmo degli spettatori che lo possono andare a vedere. I'm black, I'm black, I'm pink, I'm pink, I'm green, so white, I'm ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no shine, ain't got no underwear, ain't got no soap, ain't got no weight, ain't got no mind, ain't got no smoke, ain't got no job, ain't got no work, ain't got no boys, ain't got no pennies, ain't got no girl, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God, ain't got no friends, ain't got no assets, ain't got no clothes, ain't got no cash. È un altro brano, la colonna sonora Here, questa era I'm Black, I'm Got No, e una particolarità, il primo successo che ebbero le canzoni del musical le ebbero con la versione teatrale, ma anche grazie al fatto che molti cantanti di allora ne fecero delle cover, ad esempio Liza Minnelli, anche Barbara Streisand, Caterina Valente, The Fifth Dimensions, Sonia Cristina, Paul Jones, Madeleine Bell, insomma tanti altri. Beh, ci fu un grande entusiasmo quando questo spettacolo calcò insomma i palchi della scena teatrale americana, e fu un grande entusiasmo anche perché Rado e Ragni erano proprio dei maestri dell'improvvisazione, venivano dalla scuola di Lynn Strasberg, il teatro diciamo proprio legato a questa modernità, e si divertivano proprio a creare ogni volta delle situazioni diverse sul palcoscenico, non sempre i loro compagni di avventura insomma durante le rappresentazioni poi si trovavano pronti a queste loro improvvisazioni, e anche gli spettatori non lo erano, tanto che dopo un periodo in cui lo spettacolo fu messo in scena a Los Angeles e proprio loro sperimentarono questa tecnica avanguardistica di legata all'improvvisazione, tornarono a New York e fecero una rappresentazione in un teatro newyorkese, e ci fu il primo nudo integrale per il quale loro furono arrestati, e quindi insomma diciamo che sono stati degli avanguardisti in tutti i sensi, oltre poi a essere dei grandi sperimentatori di droghe, insomma, ecco, l'LSD che circola diciamo nell'immaginario di questo spettacolo era stata poi sperimentata proprio su di loro e su tutti coloro che poi facevano parte, tutti gli attori dello spettacolo, insomma, sapete che a quei tempi insomma l'LSD e tutte le droghe lisergiche erano considerate qualcosa che poteva aprire la mente, poteva aprire il cervello verso delle soluzioni rispetto a quella quotidianità violenta e scadente tipica dell'apparato politico americano. Infatti c'è una scena dove prendono l'LSD al parco, tutti in fila sopra degli zuccherini. Sì, sono degli zuccherini. Questo brano è cantato da Annie Golden e si chiama Air, e parla proprio dell'aria e forse anche dell'inquinamento, che allora forse se ne parlava poco, ma si cominciava a diventare un argomento. Sì, il primo nel corso degli anni si è presentata diverse volte l'occasione di portare sul grande schermo questa commedia musicale. Il primo a rifiutarla fu George Lucas nel 73, perché era impegnato nel film American Graffiti. Chi invece l'accetta proprio Milos Forman, che ne rimase affolgorato assistendo per caso a una rappresentazione teatrale la stessa primavera del 78, che proprio segnò proprio la carriera di questo regista cieco, che fuggì poi negli Stati Uniti dopo la primavera di Praga. E io volevo raccontarvi qualche piccolo aneddoto. Per esempio si parla di più di 20.000 persone che parteciparono al background, insomma alla scena in cui nel film si canta 3500 and Let the Sunshine In, e erano tutti cittadini della città di New York, 20.000 persone, pensate soltanto alla quantità di gente che questo geniale regista Milos Forman, che insomma autore di straordinari film, doveva insomma riuscire a organizzare, a controllare, anche se poi alla fine erano tutti quanti seduti, insomma si muovevano, però insomma ognuno aveva un ruolo, ecco. Se poi guardate il film ci sono varie sequenze in cui vengono fatti dei primi piani, eccetera, non è soltanto una delle scene insomma di massa, eccetera, ci sono proprio dei personaggi che proprio appaiono con delle bandiere, con dei sorrisi, dei bambini. Beh, insomma, immagino che non sarà stato affatto facile. I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. And I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life, I got life. I got freedom, brother. I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times too, like you. Oh! Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, my mouth. I got my teeth. I got my tongue, got my chin, got my neck. Got my heart, got my soul on my back. I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, got my guts, got my muscle, I got life, life. Stiamo ascoltando la colonna sonora di Hair e questo brano è un inno alla vita, si chiama I Got Life, cantato dal protagonista del film, forse l'unico si può considerare un po' il protagonista del film, Treat Williams, ovvero quel capellone, sì. Che un po' mette insieme questo gruppo. Dimmi qualcosa di... Treat Williams è un attore statunitense classe 1951, ha iniziato la sua carriera calcando il palcoscenico teatrale, portando in scena sia i classici sia musical nei teatri di Broadway, in particolare con lo spettacolo Grease. Nel 79 partecipa appunto alla trasposizione cinematografica che Milos Forman ricavò dal musical Hair e ha ricevuto grazie a questa una nomination ai Golden Globe. Nello stesso anno partecipa a 1941 all'Arme a Hollywood di Steven Spielberg, ha recitato in più di 70 film, tra le principali partecipazioni c'era Una volta in America di Sergio Leone e Guerre Stellari, un film con Vittorio Caprioli, l'ho segnato perché lui ha partecipato a un sacco di film italiani, Vittorio Caprioli, Stangata napoletana, Squittieri, Russicum, Il giorni del diavolo, Oltre l'oceano, Ben Gazzarra, insomma ha partecipato a un sacco di film che uno non se l'aspetta da lui, tutto fricchettone così, con questa energia, ecco. È grande brano questo, bisogna dire, è proprio il più bello del musical, uno dei più bei brani in assoluto della storia della musica, delle colonne sonore senza dubbio. Stiamo parlando ovviamente di Aquarius, cantato dalla bravissima Ren Woods, attrice e cantante statunitense afroamericana, che ha anche conosciuta per la sua apparizione nella serie Radici, ma anche ha recitato nei Jefferson e nel film ha fatto Car un sacco Wash. Di a Car Wash, che tra l'altro, Fede, dobbiamo farla quella colonna sonora, assolutamente, eh? Sì, che spacca Car Wash. Non sarà facile trovarla perché è un film vecchio e insomma poco conosciuto, ma insomma la dobbiamo fare. Invece io vi volevo raccontare un piccolo aneddoto sui casting di questo meraviglioso film di Milos Forman. Ai provini per il film parteciparono Madonna e Bruce Springsteen, che rimasero però esclusi dalle scelte del casting. A proposito di Springsteen, Milos Forman racconta: non erano abbastanza hippies? Evidentemente no. Per una certa mia pigrizia invitavo gli interessati al casting anche a casa mia. Un giorno è comparso alla porta un ragazzo spigoloso dai capelli lunghi, portava la custodia con la chitarra e mi disse: dicono che ci sia un concorso, conosce il musical Hair? Gli ho chiesto. Gli ho chiesto io. Beh, sì, ha risposto. E le piace? No. Allora perché è venuto? Mi ha mandato il mio agente, ha detto il ragazzo scrollando le spalle. Beh, già che c'è, magari potrebbe suonarmi qualcosa. No. Così ci siamo dati l'addio e il ragazzo si chiamava Bruce Springsteen. E questa L'età dell'acquario ci introduce ad Anna Maria Pasetti. Annina, ben ritrovata. Ben ritrovati a voi, è un grande onore essere convocata per un film di questo calibro, insomma. Sì, no? Sì, sì, ce la siamo tenuto in serbo per un po' di tempo, un bel po' di mesi, poi ha detto ma facciamolo, e sei capitata tu sotto le nostre mani, eccoci qui. E quindi, l'aneddoto che è stato appena così detto l'avevo anche trovato, infatti mi fece subito ridere molto, mi immaginavo la scenetta di Bruce Springsteen e Madonna esclusi, no, poi di Bruce Springsteen è proprio divertente quello che ha detto. Io, vabbè, insomma, posso raccontarvi una piccola esperienza personale rispetto a Hair, che ho visto per la prima volta che avevo avuto 16-17 anni in televisione e che mi commosse tantissimo. All'epoca, insomma, non avevo ancora la TV in bianco e nero, se non mi ricordo neanche bene, proprio costa tantissimo, come se mi appartenesse, no? Io chiaramente non appartengo all'era dell'acquario per problemi cronologici, però questo vi dava subito l'idea di quanto il film sia in grado, e il musical a cui si fa riferimento, in grado di parlare a tutti, no? Sì. Qualche cosa, che un messaggio che arriva oltre le generazioni. Sì. A questo proposito io mi sono rivista delle parti del film e mi ha ancora dato i brividi. Sì. È veramente eccezionale, cioè io amo Milos Forman in quasi tutto quello che ha fatto, forse le ultime cose mi hanno un pochino lasciato così, però devo dire che i suoi film mi hanno segnato profondamente. Poi il lavoro che fa sulla musica proprio Milos Forman, cioè anche Amadeus, cioè per quello, no? Sì, film sì, modernissimo, sì, quindi sì, sì. grandi. Attore, sceneggiatore, regista, mi stavo riguardando un po' la filmografia. Io del suo periodo cecoslovacco vidi solo, ce l'ho anche in videoteca, Gli amori di una bionda, che è una simpatica commedia in bianco e nero. Poi sicuramente lui ha segnato i 70 con due capolavori, Qualcuno volò sul nido del cuculo e Hair, e ha segnato gli 80 con Amadeus, che comunque ha creato un immaginario anche rispetto all'uso della musica classica, alla concezione della musica classica in una versione piuttosto rock. Ha vinto 8 premi Oscar per Amadeus. E poi comunque anche in 90 con due, c'era stato sicuramente nel, dopo Amadeus c'era stato Valmont, però negli anni 90 ha retto bene, perché due film almeno come Larry Flint e Man on the Moon si lasciano ricordare, insomma ha attraversato diciamo i decenni e adesso sicuramente non è in, più in auge, però insomma ha lasciato il segno. Certo, è un grande riscrittore di epoche, di, no? Credo che pur essendo molti dei suoi film in costume, comunque sono tutti, come dire, delle rielaborazioni e del genere e dell'epoca che vuole rappresentare, cioè nulla è relegato al suo tempo, ma è tutto filtrato da uno sguardo attuale, direi quasi folle, perché appunto l'Amadeus di Miloš Forman è quasi un hippie, se vogliamo, no? Sì, sì. Lui stesso, con questa capigliatura, cioè a me appunto ricorda i ragazzi di Aquarius, di, no? Comunque, poi scusami se ti interrompo, un grande storico, perché le ricostruzioni della Vienna del XVIII secolo sono assolutamente perfette, insomma. Sì, sì, è un grande, insomma, è da una parte attento al dettaglio storico e dall'altra alla follia rappresentativa, questo, del grande autore, credo, no? Mm-hmm, comunque Herr partecipò anche al Festival di Cannes fuori concorso. Io non ho adesso delle, cioè io non c'ero a Cannes, però mi immagino che cosa potesse aver suscitato il film per quello che, no? Rappresentava in quel momento, certo, sicuramente. Sì, anche se appunto ho letto che, cioè, rispetto al musical che comunque era datato del 67, la prima, sì, rappresentazione, sì, a Broadway, poi del 68 invece a Broadway. E il film arrivando nel 79 era già un po' fuori tempo rispetto all'età, sì, di Acquario, la hippie, no? Era già sul tramonto e quindi era già in costume, una ricostruzione, se vogliamo, però Forman fu chiamato proprio alla luce del successo di Qualcuno vuole assumito del cuculo. Sì, anche perché il riferimento poi era al Vietnam, quindi inevitabilmente era datato già nella fine degli anni 70. Sì, sì, sì, però insomma io rivedendolo prima ho detto, beh, insomma mi sembra che partano per la Siria, cioè capito, per l'Iraq non cambia niente, fondamentalmente quello è, no? Sì. Però con quell'eticità, con quella capacità di fare rientrare ogni tempo, passato, presente, futuro, che è delle grandi opere senza il tempo. Devo dire che anche i protagonisti, che comunque ha scelto al di là dei provinati scartati eccelsi, John Savage e Treat Williams, funzionavano assolutamente bene, almeno secondo me. John Savage ha la faccia proprio dell'americano classico, pulitino. Treat Williams, dell'americano un po' più massiccio, però anche lui, insomma, l'altra faccia dell'americano, no? Entrambi. Sì, poi negli altri film da lì in seguito non ha più i capelli lunghi e si confonde benissimo. Non ti immagineresti che è lo stesso del film Air. Questo però è l'arte della recitazione, quella di riuscire a cambiare e di trasformarsi. Certo, certo, certo, infatti meravigliosi. Tra l'altro anch'io ho raccolto qualche aneddoto più delle rappresentazioni teatrali che ebbero dei grandissimi interpreti. Già nel 68 c'era Diane Keaton nel cast del musical. E nel poco dopo Keith Carradine, quindi insomma dei miti, delle leggende del cinema americano, della controtendenza, inizialmente della controcultura, no? E insomma io credo che chiunque oggi, ecco, metterei R nei libri di scuola, cioè obbligo di visione al liceo per tutti i ragazzi. Sì, sì, cioè, per me assolutamente come materia. Come materia proprio, peace and love. Sì, peace and love, visione di R, interrogazione. Tra l'altro David, rispetto agli aneddoti, David ci faceva notare poco fa che ci siamo dentro all'età dell'acquario, ma sicuramente al di sotto delle aspettative. Cioè, ci siamo entrati perché loro parlavano della futura era dell'acquario nella quale ora siamo dentro. quando, a livello quando, proprio astrologico, Jupiter and Mars aligns with the moon. Senti Annina, noi ogni puntata ai nostri ospiti rivolgiamo anche un test però chiediamo se il nostro interlocutore, la nostra interlocutrice ha un film di cui piacerebbe sentire la colonna sonora trattata in una delle prossime puntate, magari. Guarda, mi aggancio a un film che ha dei pezzi allora mettiamola così, sì, un grande film di Zemeckis, vi faccio io l'indovinello, che attraversa anche quello l'era dell'acquario. Allora ci arriveremo piano piano, perché adesso su due piedi non attraversa, parte dagli anni 50, arriva all'anno 80. Ah, sì, però non l'abbiamo, siamo sempre stati lì per farlo, però non ci convince. Dovreste farlo. Il Forrest Gump, cioè, tu fai riferimento a quello. Esatto, cioè quella, perché mi è venuto in mente la grande manifestazione alla Casa Bianca, no? Anche lì, che e poi quello che fu la conseguenza negli anni 80, cioè un film forse che io quando lo vidi, Forrest Gump, l'ho sottovalutato perché rimasi troppo legata al personaggio, però è un grande affresco, no? Come li sa fare anche Zemeckis, di cui ho apprezzato moltissimo The Wire, come si chiama l'ultimo film, quello sul The Wire, The Walk. The Walk, perché mi confondo con Wire, era Wire, il documentario. Sì, esatto, era il documentario. E quindi ecco, non so, mi è venuto, sono una parte di colonna sonora originale interessante e una raccolta, una collection di brani d'epoche diverse, che anche quella secondo me vale la pena risentire. Bene. L'ho buttata lì, poi ce ne sarebbero miliardi, però ce n'è un altro. Allora, il piano B, qual è il piano B? Te vogliamo mettere in mezzo oggi, eh? Il piano B non l'abbiamo mai chiesto a nessuno. E che, cioè, anche il piano B potrebbe visto che ce ne sono un miliardo, una così, cioè, mi hai proprio invitato a fartela la cambiamo continente, cambiamo tutto, cambiamo che cosa pensiamo, un altro pensiamo? Indovinello per noi, eh? Un altro indovinello per noi, dunque. no, sono io che sto cercando di indovinare dentro me stessa, mi state veramente mettendo alla prova. Cerca dentro te stessa la colonna. Vabbè, ma non ti preoccupare, pensaci, però magari faccelo sapere. Faccelo sapere, allora prendi della comoda. Ti mando un SMS. Grande. Vi auguro buone feste. Buone feste, ma noi ci sentiremo sicuramente per le cinquine del 2015, a fine anno o inizio 2016. Beh, sono cinque titoli, dai, in un anno cinematografico tirali fuori. È più difficile dare cinque titoli in un anno, sicuro che 20, perché scegliere è sempre un'operazione difficile. Comunque, grazie della telefonata, spero di aver dato un contributo dignitoso. Bene, allora un abbraccio e ci si sente a breve. Ciao Annina. Grazie. Ciao. Prego, ciao. Once upon a looking for Donna time, there was a 16-year-old virgin. Oh, Donna, oh, Donna, oh, looking for my Donna. I just got back from looking for Donna, San Francisco, psychedelic urchin. Oh, Donna, oh, Donna, oh, looking for my Donna. Have you seen my 16-year-old tattoo woman? Heard a story, she got busted for her beauty. Oh, oh, oh. Time there was a 16-year-old virgin. Oh, Donna, oh, Donna, oh, looking for my Donna. I've been to India and saw the yoga light. In South Dominica, the Indian smoke glows bright. I'm reincarnated and so are we all. And in this lifetime we'll rise before we fall. San Francisco, psychedelic urchin. Oh, Donna, oh, Donna, oh, looking for my Donna. And I'm gonna show. was a 16-year-old virgin. Oh, Donna, oh, oh, Donna, oh, oh, oh, looking for my dagger, looking for my dagger, looking for my dagger. E stiamo sempre ascoltando la colonna sonora di Hair, e questi erano due brani in uno, ovvero Donna, cantato da Trett Williams, e la prima parte, e Hashish, e la seconda parte meravigliosa, dove c'è questo blues, bellissimo blues, con un coro che praticamente nomina tutte le droghe conosciute almeno fino allora, e quindi un sacco di acronimi, dice Hashish, e cocaine, eccetera, LSD, eccetera, e poi un sacco di acronimi per tutte quelle droghe che giravano allora. Non un so gran bel pezzo, un gran bel pezzo. E io volevo soltanto citarvi una frase del film, visto che non abbiamo degli spezzoni. E quella frase è la chiamata, la dice Berger, mi pare, spiegando che cos'era la chiamata alle armi alla giovane loro compagna. Annie Golden, che fa la parte di Jenny, la chiamata alle armi significa che dei bianchi di pelle mandano dei neri di pelle a fare la guerra contro dei gialli di pelle per difendere la terra che loro hanno rubato a dei rossi di pelle. E su richiesta di Ottavia vi ho messo questo brano della colonna sonora di Hair, che forse uno dei più romantici, direi, anzi sicuramente il più romantico, Easy to be Heard, cantato da Charlie Barnes. Eh sì, Ragno e Radi si sono dedicati a vicenda a questo brano, che poi appare nel film. È una scena, una delle scene più malinconiche, più struggenti, quando il gruppo si aggira per Central Park, hanging around, cazzeggiando così, e incontrano questa giovane donna con un bambino, che riconosce in Lafayette, che è uno dei protagonisti, il papà di questo bambino, e canta questa bellissima canzone. E questa canzone, appunto, cantata da Cheryl Benz, una cantante che riuscì ad avere una parte nel film di Forman durante il casting, a cui partecipò senza un agente, perché era molto povera, non faceva questo mestiere, non era una cantante, lavorava in un hotel, faceva la cameriera, e la sua canzone Easy to Be Hard fu talmente perfetta che non ebbe bisogno neanche di un chuck quando venne poi girata nel film, durante il film, che è proprio quella che vediamo, è l'unico chuck che è stato battuto durante lo shooting, insomma, di questo bellissimo film. E lei si vede anche nella scena finale, in cui loro salutano, insomma, sono nel deserto, e diventò molto amica. Milos Forman si innamorò di lei, nel senso, insomma, di in un'amicizia, e le chiese di tornare in America, a New York con lei, ma lei rimase nel deserto di Barstow, continuò il suo lavoro di insegnante di pianoforte che aveva iniziato, e si allontanò, insomma, dalle scene cinematografiche, dedicandosi soltanto alla musica. E questa è sempre la colonna sonora di Hair, e questo pezzo è in particolare Walking in Space, cantato da un gruppo di persone enorme, tipo l'abbiamo anche un po' accorciato, Debbie Dye, Howard Porter, Liata Galloway, Marilyn Wilbus, Nell Carter, Randy Wilson, Salome Bay, Tony Watkins, ma soprattutto da Betty Buckley, che è la voce della giovane vietnamita che canta in playback con la voce di Betty Buckley, che è un'attrice teatrale, cinematografica e televisiva, cantante famosissima in America, ma anche insomma anche qua in Italia. Ha vinto nel 1983 il Tony Award come migliore attrice per il ruolo di Grizzabella nel musical Cats. È stata Miss Collins nel 1976 nel film Carrie di Brea De Palma, e ha partecipato a vari film, tra cui Another Woman di Woody Allen, il film di Roman Polanski Frantic, ed è soprattutto chiamata la voce di Broadway. Beh, se l'avete sentita potete capire anche perché. E adesso chiudiamo con un altro brano molto importante di questa colonna sonora, ovvero The Flash Failure, ma soprattutto conosciuta come Let Sunshine In. Sì, prima di chiudere però vi voglio dare i ragguagli per sottoscrivere alla radio. Potete farlo con il conto corrente postale 6180-4001, intestata Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185 Roma. Dovete sostenere la radio perché ha bisogno del vostro sostegno, visto che non sta vivendo un periodo proprio felice. Potete anche dare un vostro contributo attraverso il metodo PayPal, che potete attuare andando sul sito della radio nella pagina sostieni Onda Rossa. E che altro dirvi, la nostra email è Tracce di cinema @ondarossa.it. E per qualunque cosa potete contattarci lì. E peace and love a tutti quanti. A giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. Facing a dying nation of moving pain.